become this chalet. Just a smile. Il terzo orgasmo, rubrica di cultura letteraria lesbica femminista, presenta Dal volo al trip, seconda parte, ovvero La faticosa libertà di Mrs. Millet. Carissime radioascoltatrici del terzo orgasmo e non solo, pulzelle e non gentlemen e soprattutto gentlewomen, eccoci qui ritrovate per la seconda parte della puntata Dal volo al trip, che questa settimana l'abbiamo intitolata La faticosa libertà di Mrs. Millet, e capirete il perché durante la trasmissione. Io sono Nanchui, per chi si fosse sintonizzata per la prima volta in questa fascia serale, sono in compagnia della donna invisibile, Genziana, che oggi sarà presente solo in spirito, e quindi, ragazze mie, sono libera, I'm free, nessuno a dirmi questo dillo così, questo fallo colì, questo non va bene. Conoscete la libertà? Sapete dare una definizione della libertà? Eccola, io la possiedo in questo preciso momento. Chissà se Kate Millet, nel suo free canton di rapporti incasinatissimi, ne aveva un'idea chiara. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dei suoi primi due libri autobiografici. Per chi non ci avesse ascoltato, ricordo che ci siamo occupate di In volo del 1974 e di Sita del 1977. Oggi invece ci occuperemo del libro forse più corposo di Millet, Il trip della follia, pubblicato nel 1990. Ragazzi, sembra ieri. Cosa facevate voi nel 1990? Genziana era una pulzellina ancora non sbocciata alle delizie saffiche. Io ero già una delizia saffica, travizzite saffiche, ahimè, ma pur sempre una delizia. Ah, che bei ricordi, le mie cravatte, i miei viaggi. Un'altra vita. Ma torniamo alla vita della nostra, che invece nel 1990 aveva compiuto 56 anni e aveva superato la prova più difficile della sua vita: scrivere del suo internamento psichiatrico. Sì, perché Kate fu rinchiusa diverse volte in manicomio, e come accade in tutte le storie psichiatriche, furono proprio le amiche più care a portarcela dentro. Il trip della follia è appunto questo viaggio parallelo alla sua vita di scrittrice, di femminista, di militante e di artista, che lei è costretta ad affrontare. Costretta in senso letterale, costretta con la forza da persone che avevano deciso che fosse pazza e che quindi la fanno rinchiudere contro la sua volontà. Con tutto quello che ne consegue, ovvero viene imbottita di psicofarmaci, decide di non farne uso e si ritrova depressa. Le amiche le voltano le spalle, viene di nuovo rinchiusa e così via. Ora, fino a questo punto potremmo dire tutto normale, cioè non proprio normale, ma comunque nella norma di quanto sappiamo degli ospedali psichiatrici e delle dinamiche sanità-follia e normalità-anormalità. E allora dove sta la grandezza di Millet? Mi faccio le domande e mi rispondo da sola. È lo spirito di Genziana possedermi, o quello di Marzullo? Non so quale è peggio dei due. Comunque, dicevamo, la grandezza di Millet. Ecco, la grandezza di Millet sta nella sua capacità di scrittura e di analisi di quanto succede prima, durante e dopo il ricovero coatto. prima di sprofondare nella lettura di alcuni brani che sono abbastanza corposi e insomma anche abbastanza duri, che abbiamo scelto per voi, direi che è il caso di lasciarci un po' andare. Andiamo a leggere direttamente dal libro di Millet alcuni pezzi che ci faranno entrare nella lucidissima analisi dal di dentro dell'istituzione psichiatrica. Antefatto. In quel periodo Millet si occupava dei diritti legali di un caso che interessava un nero di Trinidad, Michael, accusato ingiustamente proprio perché nero e condannato a morte. In sua difesa si erano mossi artisti del calibro di Lennon e Yoko Ono. Scrive Millet. Il primo internamento andò così. California, Berkeley e Sacramento, dove avevo una cattedra a tempo determinato, ma con un titolo grandioso. Fu a Berkeley che venne internata. Di seguito riportiamo un dialogo tra Sally, sua sorella, e Millet. Siamo preoccupati per te, piccola. Io sono preoccupata per Michael. Perché non mi aiuti con gli atti del processo mentre sei qui? Idiota, butti via i tuoi soldi andando in Inghilterra. Stai perdendo la testa. Cosa vuoi dire? Voglio dire che siamo preoccupati per te. Preoccupati diventa all'improvviso la parola più inquietante che abbia mai sentito. Da lì a poche ore, il primo internamento. La sorella Sally, il marito Fumio e l'amante Sita, ambiguità della concordia, la portano in un ospedale psichiatrico, dicendolo che avrebbe solo dovuto fare una chiacchierata con una psichiatra donna. In realtà, lo psichiatra è un uomo. E quella che doveva essere solo una chiacchierata si rivela un internamento vero e proprio. Kate descrive così l'incontro con il medico. Non eravamo fatti l'uno per l'altra. Ogni domanda, perché si tratta di un interrogatorio, non di un consulto medico, tanto meno di terapia o cosa del genere, Ogni domanda parte dal presupposto che io dia i numeri. Casi di pazzia in famiglia? Non è un modo di pensare un po' superato? Obietto nella mia qualità di docente a pieno titolo dell'università di questo stato e comportandomi come tale anche di fronte a un'autorità maschile, pur nella trappola di cui comprendo la portata solo gradualmente. Sono venuta perché mia sorella maggiore mi ha sfidata e mi ha spinta a consultare uno psichiatra. Allora il suo unico sbaglio è stato di fidarsi delle persone che l'hanno portata qui. Sentirò questa osservazione fino alla fine dei miei giorni. Sarà come un eco lungo le pareti della mia mente, fino a quando per me non ci saranno più suoni. Può succedere di nuovo, in qualunque momento. E infatti successe. Dal primo internamento seguiranno una serie di eventi spiacevoli, tra cui il peggiore è la somministrazione del litio, uno dei leitmotiv di tutto il libro. Me ne sto lì seduta assente, con un cappello sulla fronte, le cose strane che mi passano per la mente. Avrei una voglia di gridare, ma non capisco a quale scopo, poi d'improvviso piango un poco, rido quasi fosse un gioco. Se sento voci non rispondo, io vivo in uno strano mondo, dove ci sono pochi problemi, dove la gente non ha schemi. Ai, ai, ai, ai. Non ho futuro né presente, e vivo adesso eternamente, il mio passato è ormai per me distante. Ma ho tutto quello che mi serve, nemmeno il mare nel suo scrigno, a quelle cose che io sogno e non capisco perché piango. Non so che cosa sia l'amore, non capisco il batticuore, per me un uomo rappresenta chi mi accudisce e mi sostenta. Qui comincia la mia croce, vorrei scordare e ricordare, la mente mia sta per scoppiare. E sbatto tutto ciò che trovo, e da finirla poi ci provo, tanto per me non c'è speranza di uscire mai da questa stanza. Ai, ai, ai, ai. Sopra un lettino cigolante, in questo posto allucinante, io sogno spesso di volare nel cielo. Non so che male posso fare se sogno solo di volare. Io non capisco i miei guardiani perché mi legano le mani. E a tutti i costi voglio che indossi un camice per me, le braccia indietro forte spingo, questo punto sempre piango. Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione, un'ombra chiara mi attraversa la mente. Le mani forti adesso mordo e per un attimo ricordo che un tempo forse non lontano qualcuno mi diceva t'amo. In un addio svanì la voce, scesi nell'animo una pace, ed è così che da quel dì io son seduta e ferma qui. Il trip della follia si articola in tre parti. La prima, fattoria. La seconda, Irlanda. La terza, New York. Sono questi i tre luoghi e allo stesso tempo moventi che conducono Kate dentro la prigione senza via di uscita della follia. Ma per lei, per fortuna sua e nostra, riesce ad uscirne, viva, che non è poco, e anche a raccontarcela, che è tanto. Tutto comincia dalla fattoria. Come dicevamo l'altra volta, Millet, con i diritti d'autore ricavati dalla pubblicazione de La politica del sesso, riesce a comprare un vastissimo appezzamento di terreno che diventerà un laboratorio per giovani artiste. Questa fattoria si rivela ben presto un disastro finanziario su Casoldi e qui cominciano i problemi di Millet. Già, perché finché hai i soldi va tutto bene. Appena li sperperi, tranc! C'è la regola delle 3P. Conoscete la regola delle 3P? Vostra madre non vi diceva mai: ah, figlia mia, diventerai povera e pazza. E la terza P, qual era? Sarà stata puttana? No, mammuzza, questo no, non me l'avrebbe mai detto. Ma le amichette sì, me lo dicono. Anche se non è vero, io femmina seria sono, di mammo sono. Comunque, dicevamo che finché hai i soldi va tutto bene, appena li sperperi, e magari sei un artista e quindi un po' stramba, e magari impieghi i tuoi soldi per difendere un nero che ingiustamente è stato accusato e rischia la pena di morte, e magari sei lesbica e quindi diversa, e magari sei stata già rinchiusa in un manicomio, non importa se è stato uno sbaglio, nessuno ti crederà, sei decisamente pazza e vai rinchiusa. Ma andiamo con ordine. Eravamo al primo luogo movente della follia di Millet, la fattoria succhia soldi. Nonostante la bellezza del progetto, chi di noi infatti non vorrebbe mettere su un luogo in cui le donne possano svilupparsi in autonomia come artiste? Nonostante la bellezza del progetto, dicevamo, c'era anche una responsabilità notevole, economica e giuridica, che a lungo andare diviene stressante e pesa tutta sulle spalle di Millet e lo procurerà una certa irratibilità. Come darle torto del resto. Ecco, se Millet non avesse mai avuto il primo internamento, non sarebbe accaduto nulla. Ma poiché c'è il precedente, ecco che quando le altre donne la vedono un po' nervosa, non possono fare a meno di notare che hai qualcosa di diverso. Dopo averne parlato tra loro, ma senza di lei, decidono che deve ricominciare a prendere il litio. E Sophie, la sua compagna, la deve convincere a prenderlo. Sophie va e viene tra me e la cucina, porgendomi le medicine. La voce tagliente e riluttante. Ecco, prendi questo. Su, non ho tutto il giorno a disposizione. Il tono sgarbato che si usa con un'adolescente riottosa o con un oggetto. Nessuno mi parla in questo modo da anni. Uno dei grandi vantaggi dell'età adulta è che nessuno si rivolge più a noi come a un oggetto. Questo è il tono che si usa con i lavativi, gli indisciplinati e i deficienti, quando il rispetto non è più necessario. Aspetto mentre alla fattoria stanno deliberando sul mio caso, forse organizzandomi la vita, e poi un brivido freddo, forse stanno chiamando la polizia, l'ambulanza, lo Stato. I pazienti con le mie idee sulla psichiatria vengono trattati come casi difficili. Persone con il mio atteggiamento rispetto all'elettroshock potrebbero facilmente esservi sottoposte per punizione. Sophie sarebbe l'ultima a tirarmi addosso la polizia, ma ci sono altre brave cittadine alla fattoria a cui probabilmente piacerebbe farlo, per l'eccitazione, per la prosopopea, per il dramma, per le sue potenzialità tragiche. È nella mia stessa casa e con il mio telefono che mi state tradendo, penso furiosa alla sola idea. Ma va sempre a finire così. L'ultima volta ho dovuto persino pagare le interurbane e un certo numero di biglietti aereo per quelli che avevano tramato contro la mia libertà. Stasera, come sempre, stanno tutte semplicemente cercando di aiutare, perché erano tanto preoccupate per me. Quanto detesto questa parola. Durante il primo internamento, Millet era stata sottoposta alla cura del litio. Quando fu libera, gli psichiatri continuarono a prescriverglielo. Anni dopo, di comune accordo, naturalmente con Sophie, e considerati i pesanti effetti collaterali del farmaco, decise di non assumerlo più. Sophie e Millet avevano fatto un patto. Nel caso una delle due avesse visto che qualcosa non funzionava, la cura sarebbe ripresa. Un patto che sembrerebbe ragionevole, ma che in realtà non lo era, perché di fronte alla paura della pazzia altrui, i sani diventano irragionevoli. Come sarebbe stato facile l'esperimento di smettere il litio se non avesse riguardato che me, se avessi mantenuto il segreto. In parte è colpa mia. Non sono stata discreta. Guardatemi, non mi sono mai sentita meglio, snella, forte, giovane. Ho ripreso a nuotare, da vera nuotatrice. Sono dimagrita, ho recuperato il fiato. Anche la vista è migliorata. Sono meno miope. Potrebbe perfino correggersi da sola. Potrei tornare a vedere perfettamente, anche senza gli occhiali. Perché è così che sento la mente e il corpo. Ringiovaniti, guariti. Il litio rallenta il pensiero, annebbia le sinapsi, trattiene, acquieta, reprime l'attività cerebrale allo scopo di prevenire la sovraeccitazione maniacale e l'iperstimolazione, i grandi baobao. Il terrore della vittima è la depressione, non il delirio maniacale. Che roba è questo litio che prendevi? È questa, la domanda che fa Libby, una ragazza ospite alla fattoria. E Millet risponde. È compreso nella tavola degli elementi. È una sostanza naturale, presente in natura. Il simbolo del litio è Li, numero atomico 3. Un numero basso è un peso atomico più leggero di qualsiasi altra cosa, a eccezione dell'aria. A causa di questa leggerezza in natura, non si trova allo stato puro, ma combinato con altre sostanze, e si combina con altri elementi per formare un sale. Il litio medicinale è sintetico e anche questo è combinato con dei sali, perciò è carbonato di litio o citrato di litio. È talmente facile da produrre che una pillola non costa più di 10 centesimi. Nella forma presente in natura ne facevano uso già i greci, si trova anche nell'acqua Perrier. I greci lo usavano come stimolante, forse si recavano alle sorgenti di litio come si va alle terme. Potrebbero anche avere capito le qualità di calmante, di elemento equilibratore degli stati di esaltazione e di abbattimento che mantiene in condizione di stabilità. Sembra che gli psichiatri non sappiano o sostengono di non sapere con esattezza quali effetti abbia sul cervello lo ione del litio una volta entrato nel sangue. Dicono che nella fase maniacale la sinapsi, lo scambio di energia attraverso i neuroni trasmettitori del cervello, è troppo accelerata. In quella depressiva, troppo lenta. I medici non sanno ancora bene a cosa serve il litio, o meglio, sanno solo che funziona, che riequilibra velocità e lentezza, ristabilendo il ritmo e che quindi livella gli stati estremi della fase maniacale e di quella depressiva. Ma non sanno il perché. Così tutti ingoiano, diligenti, un'incognita. Io non ho preso il litio perché costretta dalla gente che mi rinchiuse in manicomio. L'ho fatta franca senza prendere niente, a parte quello che mi hanno cacciato in gola. Una volta fuori ero pulita. Ho cominciato a prendere il litio per una forte depressione in cui caddi molti mesi dopo che ero fuori. E l'ho presi non come misura preventiva contro gli stati maniacali, ma contro la depressione. Sto cercando di capire se posso evitare sia questi stati sia il litio. È una scommessa, ma vale la pena cercare di vincerla e riappropriarmi della mia mente senza assistenza chimica. E Libby nuovamente. Che succede se dai i numeri? Affronteremo la cosa. L'affronterò senza ospedalizzazione forzata. È la legge. Il ricovero coatto, internare qualunque, qualcuno, privarlo forse per sempre della libertà, consegnarlo a cose come l'elettroshock, che è una tortura vera e propria, tutto questo è semplicemente fascista. Quindi, niente camici bianchi da queste parti, tanto per cominciare. Mia cara Millet, le ultime parole famose, the famous last words, per farla breve. Te la sei tirata, Millet. Eh sì, perché lei sarà purtroppo nuovamente alle prese con camici bianchi, internamenti e litio a volontà. Don't wanna lock me up inside lithium. Don't wanna forget how it feels without lithium. I wanna stay in love with my soul. Ooh, but God, I wanna let it go. dicevamo che Millet si troverà ancora una volta alle prese con un tentativo di internamento e ancora una volta grazie alle persone a lei care. Sophie, l'amante, la sorella Mallory e l'amica Jenny. La fattoria stava diventando sempre più difficile da gestire. Economicamente Millet era a pezzi e nonostante ciò decise di acquistare dei cavalli andando molto al di sotto delle sue possibilità economiche e questo preoccupò non poco le tre di qui sopra, al punto che si presentarono un giorno al cospetto di Millet in compagnia di una giovane e urtante psichiatra. Adesso io vorrei dire, faccio un inciso, insomma, è vero che Kate esagerò un po' con le spese trovandosi un po' nell'impossibilità di affrontare debiti e situazioni poco piacevoli, ma non è che per questo una deve passare ogni volta sotto l'esame di uno strizzacervelli. Ma allora io che cosa devo dire? Io che sperpero quei pochi euro che ho, io che in 25 anni di lavoro non sono riuscita a mettere una lira, anzi un euro da parte, ma me ci dovrebbero ingozzare litio, scusate, no? Questo era un piccolo inciso. Comunque dicevo che proprio a causa dei suoi debiti le care ragazze che ho citato decisero con l'aiuto della strizza cervelli di convincerla a ricoverarsi nuovamente perché preoccupate. Ciò che ne viene fuori dal libro è un vero corpo a corpo verbale tra Millet e le quattro che si conclude in strada tra ambulanze e macchine della polizia. Non ci crederete, ma sarà grazie a un poliziotto, Kelly, e alla legge che vieta il ricovero di un paziente non consenziente, che conosce la legge, che ha con sé un agente di polizia per farla rispettare, ecco, grazie a questo Millet scampa all'ennesimo ricovero. Ma ragazze mie, non ci crogioniamo sugli allori. Fallito il tentativo di ricovero, coatto legato agli episodi della fattoria, segue la seconda parte del libro, Irlanda. Qui le cose non andranno niente bene, anzi sarà un'esperienza devastante per Millet che dovrà affrontare un nuovo ricovero, ma questa volta non riuscirà a scampare. L'Irlanda era stato meta di un viaggio insieme privato e politico che assurdamente si traduce nell'esperienza diretta, appunto, della più sconvolgente delle istituzioni manicomiali. Millet si era recata in Irlanda per motivo personale legato appunto alla richiesta di una della seconda nazionalità al padre irlandese e anche e soprattutto per motivo politico legato alle condizioni dei prigionieri politici. Millet è conosciuta come una sovversiva e in quanto tale era tenuta d'occhio. Per una serie di inghippi e leggerezze Millet viene nuovamente internata, nuovamente pasticche, nuovamente litio. Il reparto, luogo di miseria, consunti copriletti di ciniglia gialla, tende sbiadite, un crocifisso, Cristo che mostra il proprio cuore sanguinante a 35 stanche prigioniere. Sono per lo più anziane. Alcune russano, già sebbene le luci siano ancora accese, sia l'ora di lavarsi i denti e andare al gabinetto. Saluto le donne ai due lati del mio letto. Delle compagne adesso. Timorosa di uscire dalla stanza da sola ed essere aggredita, approfitto della spedizione di gruppo ai bagni. Gabinetti privi di porte. La pena di questo squallore e del freddo. Lo spazzolino da denti è rimasto nel mio bagaglio, ma posso sempre sistemarmi i capelli con la spazzola che ho nella borsa. Persino questo fa sentire meglio, l'importanza del proprio aspetto in manicomio, il suo significato politico. Una testa spettinata non viene mai rilasciata. E anche quel po' di consolazione che può dare. Invidio i loro spazzolini da denti, il guanto di spugna per lavarsi, ma ho ancora addosso i miei vestiti, mentre le altre donne sono state imprigionate dentro le loro vestaglie da così tanto tempo che hanno mai assunto fino in fondo l'aspetto delle istituzionalizzate. E anche la faccia muta della povertà. Questo è un posto statale, non privato. Il capolinea. adesso la sera devo prendere un orribile sciroppo di Torazina, fingendo con me stessa che sia brandy o qualche liquore irlandese che non mi è capitato di assaggiare nel mondo esterno. Bevendola lentamente, cercando di ignorarne il gusto ripugnante, di trasformarlo in una bevanda alcolica, in un piacere o in un premio. Non c'è nulla che ottenebri la mente come la punizione. Mischiandola o alternandola al latte, mentre l'infermiera di notte urla perché la finisca. Sfidandola, fingendo che mi piaccia, per Dio, mi costringe a prendere dell'altra. Prescritta? Chi lo sa? Da un medico? Da un suo schiribizzo? Chissà. So soltanto che ci vorranno più arance per vincerne l'effetto. Più caffè se riuscirò a procurarmelo, ottennero liscio. Comincio a mangiare frutta come un atleta, a metterla da parte nel mio armadietto, a consumare 6 arance al giorno. Comincio a soffrire la sete, perché ovviamente la Torazina è sete. Le donne qui parlano di un altro psicofarmaco, il Prolixin. Come già per la Torazina, non viene diluito con succo d'arancia come in America. Queste sono dosi pure, dosi massicce. Che cos'è? Che effetto ha sulla mente? La Torazina è allucinogena. Non ci vuole proprio mentre sto cercando di conservare l'equilibrio mentale, nonostante questo posto. La confusione dei giorni in questo posto, non so più quanti, ore contrassegnate soltanto dalla beffa delle pillole, l'inganno del tè allungato, le fette di pane bianco gommoso, l'accendersi e lo spegnersi delle luci, la truppa che si sposta dal dormitorio alla sala comune, le infermiere che abbaiano che è ora di alzarsi, di sistemare i letti per l'ispezione, di nuovo ora di andare in bagno, delle pillole, ora di andare a letto, la televisione accesa o spenta, la radio che strilla o tace, il giornale di una settimana fa o di ieri o di oggi. L'accaparrartelo copia la data per avere un punto di riferimento, mettilo nella borsa di plastica. Novembre, una silhouette grigia alla finestra. Era ottobre quando mi hanno presa? Quando in ottobre? Anni che ho già vissuto anticipatamente, sempre la stessa stanza, queste sedie, le stesse donne o delle repliche. Se la prendi con molta calma, se eviti la stanza di isolamento, l'elettroshock, potresti vegetare qua giù secondo la stessa routine, espropriata di tutto quello che vuoi dalla vita, di tutti quelli che conosci e ami per anni. Sempre che tu mantenga il controllo e non alzi mai la voce, fallo una sola volta e te la vedrai brutta. Qualcuno di loro l'ha mai provata questa merda? Lo sanno che effetto ha sulla coscienza, sulle percezioni, sulle sensazioni, sulla logica e ragionamento? Dovrebbe saperlo anche l'ultimo dei tirocinanti, ma come potrebbero saperlo senza ingerire essi stessi queste droghe? E anche allora, ne abbandonerebbero l'uso? Con tutto quel denaro in ballo? Le giganteschi multinazionali della chimica? L'intreccio tra potere di polizia e controllo statale che ci sta dietro? Ormai la cosa si è spinta troppo oltre, fino a diventare un mondo chiuso e autosufficiente, compatto, ermetico, un antimondo, l'altra faccia dello specchio della ragione, contrapposizione divenuta ormai sostituto. Ora si viene esaminati e condannati in base a test sulla capacità di ragionamento, che sono irrazionali a loro volta, calibrati e valutati sulla scorta di leggi della logica che sono illogiche. E gli psicofarmaci assicureranno il tuo insuccesso. Non è una questione di intelletto o di raziocinio, ma di controllo. un periodo inquantificabile quello che Millet trascorre nel manicomio in Irlanda. Probabilmente poteva diventare un periodo illimitato, probabilmente, ma il caso, chiamiamolo caso, ha voluto che le cose andassero in un altro modo. Il caso ha voluto che la storia di Millet in questo internamento prendesse un altro tipo di diverso. Mi dirigo verso il dormitorio alla ricerca di altre sigarette. Stanotte comincia la resistenza. Sarà una lunga notte e sono soltanto le 6. Il grigio che si affaccia su un grigio più scuro. La luce segue ancora una volta il proprio inesorabile destino. Attraverso l'atrio, oltrepassando la porta da dove ero fuggita. In piedi, accanto alla fontanella, c'è Darcy. Santo Dio, ma come sei arrivata qui? Veramente non ho il permesso. Ho immaginato che fossi qui. Hanno continuato a mentirmi in tutto e per tutto. Darcy, ti ringrazio, non so dirti quanto. Non c'è tempo per gli abbracci. Tra un attimo qualcuno di loro arriverà, la sorprenderà. Ho pensato che questo è quello che avrebbero fatto di te, dove ti avrebbero portata. È così vicino all'aeroporto. Non sei la prima straniera che scompare qua dentro. È un inferno, Darcy. E noi ci siamo dentro. Shh. Non immagino che io sia qui. Dobbiamo parlare in fretta. Come hai fatto ad entrare? Che questo sia anche il suo destino? Quello comune ai sobillatori, ai ribelli? Mi chiedo, ripensando alle anziane donne attorno al fuoco della sala comune. Qui siamo tutte streghe, Darcy. Esatto. Ma tra un attimo mi sbatteranno fuori. Mi sono intrufolata di nascosto. Hanno continuato a mentirmi su tutto il loro maledettissimo sistema. Ho solo tirato a indovinare. E io sto facendo due passi fuori dalla gattabuia per un attimo. Non è perfetto. Sta calma. Tra un momento arriverà qualche infermiera. Ma almeno ti ho trovata. Compare un'infermiera che piomba su Darcy, afferrandola per il braccio e la spalla. Lei non ha niente da fare qui. Sì, invece. È la mia amica, Margheretta Darcy. È venuta a trovarmi. Niente affatto. Come ha fatto ad entrare, signora? Dalla porta. Era aperta. Ammiro la calma di Darcy, anzi la adoro. La porta era aperta per qualche infermiera del turno di notte in arrivo e Darcy l'aveva semplicemente seguita. In questo posto, da dove avrebbero potuto non lasciarla più uscire. Splendido. Che fegato. Ha i denti aguzzi, una di noi, una strega, una grande strega. Se soltanto restasse con noi stanotte, potremmo fuggire tutte quante insieme, svuotare questo posto. Ma è bloccata dall'infermiera, quella grossa ed energica furibonda. Darcy, ricordati. Non preoccuparti, faremo tutto il possibile. La sua bontà, la sorpresa di vederla, il miracolo della sua apparizione. Nessuno aveva mai sfidato l'inferno per me in questo modo. Contro le regole, senza autorizzazione, una visita da guerrigliera, un attacco di sorpresa. È stata qui, anche se sento che la spingono giù per le scale, così come io vengo ricacciata verso la sala comune, dove il fuoco non è molto alto e potrebbe anche non innalzarsi oltre. Fu questo incontro con Darcy, questo primo incontro, che portò Millet alla libertà, perlomeno finora. Quando vennero a chiamarmi, sapevo che significava l'elettroshock, l'isolamento. Il momento era arrivato. Lo si capiva dal tono, l'esasperazione giunta al limite. E invece era Deirdre. La felicità incontenibile di caderle tra le braccia e stringerla, ripetendone all'infinito il nome, questo bellissimo nome che è l'Irlanda stessa. Il dolore trasformato in gioia, Non avevo avuto modo di stringere Darcy. Troppo poco tempo e troppo rischioso. Ma adesso abbiamo un'intera stanza a nostra disposizione. La nostra stanza per stare insieme e abbracciarci e dirci tutto quello che ci pare, parlando sommessamente. Dreide sussurra, perché sono così paranoica da essere contagiosa. Dreide, come hai fatto a entrare qui dentro? Ridiamo e piangiamo e ci alziamo e ci sediamo di nuovo sui lettini singoli. Un appuntamento tra i mobili. Addirittura un comodino, come se fosse una stanza privata, una qualche stanza misteriosa, a disposizione di chi viene in visita durante il giorno. Una cella di notte. La chiudono a chiave? Ci hanno chiuso dentro? Dreide è qui. Non possono farlo, non lo farebbero. Sono al sicuro. E lei è al sicuro. E ridiamo, e sorridiamo, e sospiriamo. Anche lei, come me, piange. Come ci sei riuscita? Sei un miracolo. E ricominciamo a ridere, perché non desideravo altro che vedere un viso. In lontananza, ma soltanto il viso della mia salvatrice. Era quasi un voto. Chiunque fosse venuto da me per primo avrebbe avuto la mia eterna gratitudine. Darcy era stata la prima. Ora Deirdre. Per un attimo sento una fitta di dolore per quanti avevo sperato di vedere e non erano venuti. Non importa. Deirdre è una nuova amica, coraggiosa e bella. E si è fatta strada fin qui. Dicevamo la libertà, e ho aggiunto per poco, perché nella terza parte del libro New York purtroppo siamo testimoni della capitolazione di Millet. Si trova in un momento ancora difficile, i debiti per la fattoria, persone sparite, Fumio, il marito che chiede la separazione. È la decisione di Millet di prendere spontaneamente il litio. Pensa di averne bisogno, perché un altro dramma in questo momento della vita di Millet è quello che non riesce più a scrivere. E il litio per lei significa questo, forse: riuscire nuovamente a mettere le parole su un foglio, ad essere nuovamente un artista. Ed è in questo momento che entra in crisi con tutto quello che aveva detto e fatto fino a quel momento. Persa nel cuore della città, tra Park Avenue e la 17esima, persino a pochi passi da Union Square, ma ugualmente persa, a casa, in America, ormai da 2 mesi, le forze che mi abbandonano progressivamente, la mostra nei quartieri alti un fallimento, nonostante l'eleganza dell'edificio in arenaria, gli splendidi locali e perfino la belle cornici per la fotografia. La stessa mostra lesbia erotica che aveva funzionato ad Amsterdam, a Berlino, a New York, è stata un fiasco. Forse in quartieri troppo lontani e di lusso per il mio pubblico. Forse la mia rovina è stata che Sophie non abbia voluto venirci. Ne aspettavo l'arrivo, l'inaugurazione, ogni minuto più incredula che potesse farmi una cosa simile a un nuovo appartamento sulla 15ª. È un amante. Ha fatto un salto alla mostra il pomeriggio della chiusura, è rimasto un'ora e se n'è andata. Poi si sono chiusi i battenti. Priva di forze da settimane, seduta da sola nella Boveri, non conosco nemmeno più la rabbia. Gli amici pensano che debba avere fatto qualcosa per meritarmi quanto è accaduto in Irlanda. Inutile descrivere il manicomio o le torture in Irlanda, tutti si accontentano delle notizie scandalistiche della televisione. Questa è la nuova America di Reagan. Io vengo da tutt'altro posto. Comincio a sentire tutto intorno, la voce della ragione. Arrenditi, sei completamente al verde. Rischi di perdere la fattoria. L'unica via di uscita è la scrittura. Il manoscritto che chiamavo il libro della morte, con tutti gli appunti e i passaggi, i frammenti del primo internamento e prigionia, i tentativi di suicidio che mi travolsero in seguito, l'autentica registrazione della fine di me. Sono andata alla fattoria per fare un ultimo tentativo, nel disperato desiderio di ritrovare quella vena non ancora esaurita. Ecco, finalmente lo scriverò, pensavo. Era questo il momento. Dopo essere stata di nuovo in manicomio, una controffensiva, una soluzione da scrittrice davanti al panico. Questa volta sfida ogni cosa, rischia. Ma era sparito, semplicemente sparito. E la scrittura non veniva. Sforzi quotidiani, giorno dopo giorno. Un pomeriggio, seduta al tavolo della sala da pranzo, mi resi conto che il libro su mio padre non poteva essere scritto. Se riuscissi a farlo ora, sistemerebbe finalmente tutto. All'inizio scorreva liscio come l'olio, una meraviglia. Negli ultimi 2 anni avevo già steso 150 pagine, scrivendo con agio nel granaio, con il tavolo davanti alla finestra giusta, lo scenario dell'estate o dell'autunno, un vero e proprio lusso. Adesso vi faccio ricorso per salvarmi e non viene fuori niente. E quello che infine ne venne fuori era impubblicabile, scabroso, enfatico, furtivo, eccentrico. Non puoi dare alle stampe tutta quella roba sulle palle del tuo vecchio, sull'esuberanza sessuale di tuo padre, davvero, un argomento decisamente poco adatto. Immagina come prenderebbero questo genere di robe a tua madre. Mancando quello, negandolo, non sarebbe venuto alla luce assolutamente nient'altro. Per quanto mi sforzi, ormai non riesco nemmeno più a ricordare la mia infanzia. Quanto alla storia di quell'uomo, mi rendo improvvisamente conto che in realtà non so nulla di lui. Adesso, soltanto adesso sei pazza ai tuoi stessi occhi, follia che puzza più di un paio di calzini sporchi, piuttosto come un cadavere di 10 giorni. La depressione è morte, il segno stesso è la certezza del decadimento. Paradossalmente la depressione è il momento in cui infine contrai la malattia di cui ti accusavano quando eri in stato maniacale. Una reazione a scoppio ritardato, se vuoi. L'interiorizzazione di tutti i crimini del tempo, dell'onnipotenza nella sofferenza del tempo, della caduta e della morte. La depressione è quando sei d'accordo con tutti loro e ti arrendi. Sono come un animale affamato mentre mi avvicino al posto dove depongo il mio piccolo randello e chiedo pietà, sotto forma di una medicina che impedisca a questo abisso, a questa valle profonda, di diventare la mia vita. Per sempre, 10, 20, 30 e più anni di questa merda. Tuttavia è ancora peggio. Non è solo la medicina che cerco, ma la porta, il modo per rientrare, come se questo medico potesse concedermi l'assoluzione e la reintegrazione presso tutti coloro che amo. E può farlo. Mia madre ne sarebbe felice, Fumio, Sophie. Forse è l'unico modo per recuperare il rapporto con Sophie. Giovedì sera, dopo una sola tazza di caffè da Febe, è arrivata a dire: se non ricominci a prendere l'Lirio non voglio più vederti. Ovviamente è facilissimo raccontare a tutti che prendi la medicina senza farlo, e anche prenderla senza dirglielo. Probabilmente sarebbe stato anche possibile rifiutare di prenderla per un periodo sufficientemente lungo da sopravvivere, convincendoli che forse dopo tutto non ne avevi bisogno, il che era decisamente più difficile. Ci ho provato e adesso sono distrutta. Non riesco a scrivere e sono terrorizzata. Oramai si può concludere che ho fallito. Sto andando allo studio del dottor Foreman, solo per me stessa, per salvarmi la vita, mi dico nauseata. Rinuncio alla facoltà, tanto ostinatamente e stoltamente proclamata, di controllare il mio destino con la mia mente soltanto, senza assistenza. La mia mente, lasciata a se stessa, non era sana. Quindi, non essendo sana di mente. E qui c'è il rimedio, il litio. Prendilo e sei guarita. Balle. Non ci credi davvero mentre percorri la 53esima diretta in quel posto, temuto e odiato e tanto desiderato. Senza dirlo, dico invece che ho sbagliato a smettere di prendere il lidio e che penso che dovrei ricominciare, dato che mi sento prossima a una grave depressione. I miei modi dicono assai di più. Vergogna per la mia superbia, il mio errore. Naturalmente non ero in grado di curarmi da sola, né di capire. La malattia è aliena, misteriosa. Dopo secoli di tentativi non la capiscono ancora del tutto, questa cosa estranea che si abbatte su di me. Tutto quello che dovevo fare era ingoiare 4 pillole al giorno. Sarei stata bene per il resto della vita: carriera, fattoria, amici, reputazione. Non sarei al verde e incapace di scrivere. I 6 anni in cui ho preso quella roba sono stati produttivi. In quel periodo ho scritto 3 libri e fatto moltissime mostre. Stupida, stupida a credere di saperla più lunga, piena di imbarazzo e vergogna davanti al medico che mi osserva, probabilmente divertito. Millet sprofonda. Devi dire che sei pazza, dillo. Accetta umilmente la punizione, a meno che non ti mostri pentita di fronte a questo pallone gonfiato. Niente pillole di litio, nessuna pura cura chimica, la preziosa terapia contro i tuoi alti e bassi, il circolo vizioso delle fasi maniacali e depressive, che compensa e previene, ti mantiene in una condizione di equilibrio. O perlomeno è accertato che il litio prevenga la fase maniacale. Sfortunatamente, come continuo a ripetere, è meno efficiente contro la depressione, soprattutto se ci sei dentro. Ed è il mio caso. Così c'è da aspettarsi che la cosa sia lunga e difficile, con l'incerta prognosi secondo la quale, prendendo il litio, potrei forse tornare alla normalità. Potrebbe anche avere bisogno di antidepressivi, dice, sebbene non mi stia offrendo niente di genere. La vita sotto gli effetti del litio, un'esistenza singolare, sommersa, leggermente sedata e anche così sempre un po' depressa. un tranquillante a basso dosaggio, ma grazie al quale potresti vivere. L'ho preso per 6 anni e riuscivo a lavorare, odiandolo a volte, ma in 6 anni ci si abitua. Mi dia quella roba, mi lasci provare di nuovo. Se comincio subito, forse riuscirò ad arrestare la depressione. Neanche per sogno, non senza che tu ti sottometta. Dillo, digli che eri pazza. Certo che ero pazza, oggi sono disposta ad ammettere qualunque cosa, tutte le definizioni che avevo negato nel mio scetticismo, nella mia ansia di sanità mentale. Ammettilo davanti a lui, le tue speranze non hanno portato a nulla. Recita la formula rituale, il comportamento classico di chi parla incessantemente senza riuscire a dormire. Vive in uno stato di intensificata consapevolezza e di esaltazione intellettuale che non porta mai a niente, perché non c'è modo di portare a termine le cose. La mente invariabilmente si interrompe. Continua, recita la parte, non fare parola del fatto che erano gli altri a interromperti, e poi eri irascibile, competitiva, naturalmente nessun altro lo era, mea culpa. Sei tu a deludere gli altri, non gli altri a deludere te. Fai una confezione goblare, racconta bugie. Ormai la verità è una menzogna. Millet non riesce più a scrivere, non riesce più a gestire la fattoria, non riesce a gestire la sua vita, i suoi spazi, le sue giornate. Non c'è futuro nella stanza dove vivo, non c'è presente, solo la mente va avanti, la coscienza soffre. Se potessi estirpare il pensiero, lasciandone appena quanto basta a far passare la giornata leggendo robaccia. Quando smetto di leggere, passeggio per la casa e ogni volta che mi fermo per riposarmi vicino al tavolino basso accanto allo Stufas Franklin, il tavolo su cui mangiavamo davanti al fuoco, il passato ritorna sotto forma di nausea. Non ricordare. Basta che mi avvicini a questo tavolo e sento l'eco di come un tempo pontificavo durante le cene, le interviste. Il pensiero non è altro che recriminazione. E in qualche modo devo trovare $800 per pagare le tasse e salvare la fattoria. E poi, così remota e improbabile, le migliaia di dollari necessarie per pagare il mutuo. Se avessi tutti quei soldi, non sarebbe più intelligente mangiarseli e mandare al diavolo il mutuo? Potresti viverci per un anno. La capacità di scrivere potrebbe tornare, se ne avessi il tempo. Durante la depressione il mondo scompare, anche la parola, non si ha più niente da dire, niente, né chiacchiere, né aneddoti, non si può rischiare nulla sul terreno della parola, perché la voce interiore incalza continuamente. Come vivrò? Come me la caverò in futuro? Perché continuare? Non ho nulla davanti a me, le mie capacità vengono meno, sto invecchiando. Non voglio andare avanti nel futuro che intravedo. La perdita della parola è così fondamentale, un tale lutto. La lingua non ci lascia proprio del tutto, scende verso l'interno, nel profondo, inaridendosi nel corso di tale processo, diventando ripetitiva, come quando di fronte a un grande pericolo si ripetono le stesse formule protettive. E tuttavia si rimpiange la perdita della parola, della sociabilezza, del cameratismo, avendone bisogno ora più che mai, quando ci diventa necessaria proprio nell'osservare la superficialità, l'esitazione degli amici, la freddezza degli estranei, la sostanziale noncuranza della vita stessa, la sua mostruosità. E di fronte a questo male, non disporre nemmeno di parole per proteggersi dal vuoto, diventare muti, oltre che indifesi. Ed è in questo momento di enorme fragilità di Millet che forse, ma nuovamente il caso, le dà un'altra possibilità di virare, un'altra possibilità di salvezza e di libertà. E sarà Sophie, l'amante, la ex amante, che in passato era stata in qualche modo complice nel tentativo di internamento di Millet, sarà lei che Kate Millet definisce l'unico contatto con il mondo, a darle la possibilità di uscire fuori ancora una volta. Grazie a Sofia, a dire la verità, infilandomi ogni mattina gli abiti da lavoro nel seminterrato dal pavimento polveroso, le nuove spoglie pareti a pannelli, il gabinetto crepato, i ganci rudimentali ai quali appendiamo jeans e maglietta, cambiandoci per uscire all'ora di pranzo o alla fine della giornata, un certo numero di ore senza dolore o con meno dolore, la mia difficile situazione accantonata per un po', grazie al simpatico problemino di come stuccare alla perfezione il muro di sinistra, come levigare l'intonaco fino a renderlo uniforme, persino le cose difficili, come fissare questa scala praticamente impossibile da riparare, come rafforzare il vecchio pilastro della balaustra in modo che regga il peso di chi passa. Questi problemi sono una benedizione in confronto alle paure degli ultimi mesi, che non sarei mai riuscita a finire il libro su mio padre, che la prossima estate da sola alla fattoria sarebbe un inferno. Sophie le offre un lavoro. Sophie è una piccola, possiamo dire, ditta di costruzioni. E per caso un giorno le offre un lavoro. E in quello stesso momento succede qualcos'altro. La fattoria è salva, i suoi amati cavalli sono salvi grazie a delle donazioni. E può pensare nuovamente a come dar vita a quel luogo. E ora la fattoria, o meglio, la terra su cui far nascere una comunità artistica di donne alla fattoria, è una realtà pagata fino all'ultimo centesimo, e il merito va all'Europa, ai piccoli anticipi dell'Italia, dalla Francia, dalla Germania e dai paesi scandinavi. Per questo quel libro non ancora tradotto. I miei agenti avevano fatto un magnifico lavoro, i tedeschi avevano pagato molto presto, gli svizzeri erano arrivati giusto in tempo, l'ultima rata. Scrivere è impossibile, l'arte sembra priva di importanza, rimane soltanto la fattoria. Il granaio lavanda è fatto solo a metà, al ricordo dell'estate. In un certo senso, se riuscissi a portarlo a termine da sola, senza le apprendiste, in un certo senso, con quell'unico atto di eroismo, potrei redimermi di ogni cosa, di ogni stravaganza, di ogni perdita, compresa quella di me stessa. Quindi la fattoria torna di nuovo, anche se su quella fattoria purtroppo pesa qualcosa di incancellabile, perché Millet dice di quella fattoria: in quell'estate fatale in ciascuna di noi si è spezzato qualcosa a cui non sarà possibile porre rimedio, una forma di fiducia assoluta. E dopo questo la scrittura, finalmente. Il granaio lavanda venne ultimato in febbraio. In primavera andai a Parigi per 2 settimane. Lontana dall'America, sentii rispuntare il desiderio di scrivere. Con esitazione e incertezza concepì un libro sul terrorismo dello Stato nei confronti dell'individuo, che percorre tutto il nostro secolo, trasformando la natura della vita politica e sociale, e le cui vittime hanno creato un nuovo genere letterario, la testimonianza del prigioniero politico. Ma al mio ritorno a New York non potei continuare, smisi di leggere il rapporto di Amnesty International sui metodi della giunta militare greca e cominciai a percorrere su e giù il pavimento della Bowery. Avevo già capito che sarebbe stato questo o nessun altro libro, il trip della follia o niente, poiché si ergeva come un macigno al centro della stanza reclamando la mia attenzione e non poteva più essere ignorato. Il giorno successivo ricevetti la visita di una vecchia amica, un ex amante, Ray, che per un lungo periodo era stata ricoverata e distrutta in quei luoghi. Un tempo era una pittrice, ma la dipendenza e la mancanza di fiducia in se stessa ne avevano fatto un essere sotto tutela, un guscio vuoto. Dovevo scrivere qualcosa. Così, da quella visita, trassi un racconto su ciò che era stato spezzato in lei e in me, nel disperato tentativo di curare o nascondere le fratture. E il giorno successivo cominciai il trip della follia. E vi lascio con le ultime parole che Millet scrive nelle conclusioni alla fine del trip della follia, che mi sembrano adeguate a questo viaggio. Smettiamo di avere paura dei nostri stessi pensieri, della nostra stessa mente, dalla pazzia, la nostra o quella degli altri. Smettiamo di avere paura della mente in sé, delle sue stupefacenti funzioni e dei suoi giri di valzer, delle sue complessità e semplificazioni, del magnifico funzionamento del suo apparato, tanto più splendido perché non è affatto un ingranaggio ed è imprevedibile. Ingegnoso e sorprendente e incerto nel risultato, come la prima pennellata di un dipinto, e quanto a possibilità altrettanto vario, ricco di ornamenti e invenzioni, così come l'aguglia della Saint-Chapelle fuori dalla mia finestra, un campanile davvero folle, pieno di fronzoli, di palli e di cuculi. La trasmissione è finita, ma mi sono dilungata perché ne ho approfittato che dopo di me non c'era nessuno, quindi mi sono presa tutto il tempo e penso di averlo comunque sfruttato bene. Grazie a chi ha ascoltato questa puntata, che è stato appunto il nostro omaggio a Kate Millet, e vi diamo appuntamento, Genziano è sempre qui in spirito, ciao Genziano, ovunque tu sei, non so neanche se mi sta a sentire, chissà le critiche, comunque vi diamo appuntamento il 17 dicembre, quindi ci daremo anche gli auguri, de che non si sa, e vi auguro una buona serata, e questa è una cosa che vi dico io, quindi un consiglio, amiche, fate molta attenzione a chi vi dice che è molto preoccupata per voi. Buonanotte. Eu nenumušau mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Tai yra, yra, yra, yra, yra, yra, yra, yra, yra, yra, yra, yra, yra. O menulyje nešlampa kojus, ir menulyje nemiršta tėčiai, ten kiekvienas pa jūs ten visai nereikia skėčių, o menulį yra drakonų, jūs paglostyti galim, bet kodėl, kodėlgi broli, tas menulis, tai